si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme fino alle 10 e se volete potete cominciare da subito a interagire con noi in tempo reale, la pagina Facebook del programma è Si può fare trattino Radio 24, l'account Twitter è @ Si può fare 24 e il mio è @ Ale Maurizi. E adesso andiamo ad iniziare perché tra poco daremo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi naturalmente i nostri approfondimenti, le buone notizie che metteremo al vaglio anche dei vostri interventi al numero verde più avanti dopo il GR delle 20, delle 8 ma di mattina naturalmente. Parleremo, ve lo dico subito, in questa settimana cruciale di passaggio del Jobs Act, parleremo anche noi di lavoro. Jobs Act approvato alla Camera e in settimana dovrebbe essere approvato anche al Senato, perché per creare lavoro ci vogliono investimenti che sono quelli che sono disposti a fare gli algerini del gruppo Cervital, che hanno acquisito le acciaierie di Piombino. Proprio in settimana è stato firmato un accordo, si scongiura così la chiusura dello stabilimento, circa 2000 posti di lavoro, una buona notizia. Vedremo quali sono le condizioni di questi nuovi curiosi padroni che vengono dal Nord Africa, ne parleremo più avanti. Adesso, come detto, andiamo ad iniziare con i giornali di oggi. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora cominciamo con il Corriere della Sera, che si occupa in realtà con il titolo principale di un colloquio con Silvio Berlusconi da parte appunto del giornale di Via Solferino a Milano. Prima il Colle, poi le riforme. Colloquio con Berlusconi per il Quirinale, una soluzione condivisa. Amato ha il profilo giusto. Adesso vedremo di che cosa si tratta. Poi, secondo titolo, Italia crescita zero, nuovo record dei senza lavoro. I disoccupati sono 3,4 milioni, pari al 13,2%, il peggior dato dal 97, quando sono iniziate le serie dell'Istat. A sorpresa però crescono gli occupati, più di 122.000. Più 122.000 dall'ottobre del 2013. Nello stesso periodo però l'Istat indica la stagnazione, con una crescita attesa pari a zero per quest'anno. Fotonotizia con l'incontro tra il Papa e Erdogan, apertura al dialogo con l'Islam, la scelta del Papa in Turchia. Titolo anche sui vaccini, sono 11 le morti sospette per i vaccini, possibile ritiro di altri lotti dell'anti-influenzale, il primo allarme era scattato 3 settimane fa. Ma dicevamo, il colloquio con Berlusconi a parte del Corriere di Francesco Verderami, e insomma la cosa è questa: Berlusconi vuole entrare nella partita per il futuro inquilino del Colle e vuole farlo presto, prima il Quirinale, poi le riforme, è la tempistica suggerita a Renzi. In sostanza Berlusconi vuole garanzie sul fatto che il PD, che comunque ha una maggioranza almeno alla Camera, non voglia insediare al Quirinale, magari insieme al Movimento 5 Stelle, un candidato non gradito a Berlusconi. Quindi prima di dare il suo appoggio alle riforme Italicum, quindi legge elettorale ma anche riforma del Senato, Berlusconi vuole questa garanzia e dice a Verderami: il paese vive in una situazione preoccupante che non so quanto venga percepita fino in fondo, siamo in un sistema politico che non è democratico, dice Berlusconi, ripeto, siamo in un sistema politico che non è democratico, quindi alza il tono, siamo in presenza di una crisi economica strutturale e nel bel mezzo di questo contesto cade l'elezione del nuovo capo dello Stato, perciò credo si debba mettere subito in sicurezza la massima carica dello Stato, e che per fare questo Berlusconi chiede che sia garantito un minimo di equilibrio e di credibilità istituzionale. Amato ha il profilo giusto per fare questo. Ora, ogni volta che c'è una corsa al Colle, Berlusconi lancia Amato, che non è mai stato eletto. Certo che si sa, chi entra in conclave Papa esce cardinale, se Berlusconi lancia così adesso subito a freddo Amato, non si capisce se sia veramente quello a cui punta, oppure se sia un candidato che lui mette per far capire la direzione nella quale vuole andare, ma è un candidato già sostanzialmente bruciato. Però attenzione, perché prosegue nel colloquio con Verderami e Berlusconi dicendo: un fallimento sarebbe il fallimento di tutti. Renzi deve garantire il percorso e ritengo che lo farà. Poi servirà la responsabilità di tutti. Cioè, in sostanza, sono problemi di Renzi di garantire questo percorso. Perché se non viene garantito questo percorso di un candidato di garanzia che piace a Berlusconi e a Forza Italia, salta tutto il resto. Restando ancora un attimo su Corriere, c'è un'intervista anche a Massimo D'Alema a proposito della terza via. Sapete, dell'incontro tra Renzi e Tony Blair, è uscita fuori la terza via, la famosa via, l'incontro tra socialismo e liberalismo. Dice però D'Alema: fu positiva anche per l'Italia, ma 15 anni fa, oggi non ha più nessun significato. Lo dice anche Clinton: lo sforzo di far incontrare i principi del socialismo con una visione di tipo liberale oggi non serve più. E vediamo come dettaglia D'Alema questa sua presa di posizione. Dice: fu la sinistra di governo 15 anni fa a ridurre drasticamente in Italia, per esempio, la presenza statale nell'economia, avviò le grandi privatizzazioni, lanciò le liberalizzazioni più poi continuate nel lavoro di Bersani, riformò le pensioni, liberalizzò il mercato del lavoro, per certi aspetti persino troppo, visto che si produssero forme contrattuali che sfociarono in una eccessiva precarizzazione. Oggi, 15 anni dopo, i problemi sono diversi, completamente diversi. Bill Clinton, che non è un pericoloso estremista, ha scritto 3 anni fa un libro, Back to Work, indietro, dietro al lavoro, sostenendo che il principale limite di quelle esperienze fu aver sottovalutato il ruolo dello Stato. L'eccesso di liberalizzazione ha portato a enormi diseguaglianze sociali, a gravi instabilità economiche e, arriva a dire addirittura D'Alema, alla crisi del 2008. Quindi stop alle liberalizzazioni, stop al liberalismo, ci vuole più Stato, ci vogliono più garanzie, e quindi altro che terza via. Questo è, diciamo, il dietro front di D'Alema sul Corriere, che poi aggiunge: trovo incredibile che nel tentativo di offrire un retroterra teorico nobile al governo Renzi oggi si faccia un'operazione anacronistica di questo tipo. Repubblica si occupa invece in prima pagina della bufera nel Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle nella bufera, Grillo: sono stanco, e nasce un direttorio. La notizia la sappiamo tutti, insomma, dopo le ultime due espulsioni, Grillo, assediato da alcuni parlamentari e dai militanti, ha ceduto a nominare 5 persone in un direttorio: Luigi Di Maio, Carla Ruocco, Roberto Fico, Carlo Sibilia, Alessandro Di Battista, che lo affiancherà nelle decisioni politiche. In prima di tutto leggiamo l'intervista di una dissidente, che è Mara Mucci, parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono 3 giorni che ho mal di testa, dalle espulsioni al direttorio. Questa storia mi fa stare male, e fa stare male chi ha creduto nel progetto originario del Movimento 5 Stelle. La Mucci crede che Massimo Artini sia stato espulso perché fosse ritenuto scomodo, e è stato espulso per dare un segnale. Di che tipo, le domanda il giornalista, per dire: non sono solo il garante nella mia figura, queste sarebbero le parole di Beppe Grillo, dovete riporre totale fede, ma questa non è una questione di fede, l'unica cosa che chiediamo è trasparenza. Ad esempio, perché non c'è un ente terzo che certifica il voto, per esempio sul sito di Beppe Grillo, sul blog? Però lei è, cara onorevole Mucci, una nella lista dei 15 parlamentari che non hanno pubblicato i loro dati sul sito Ti rendi conto, cioè il sito nel quale i parlamentari del Movimento 5 Stelle devono rendicontare le loro spese. Risposta: io ho sempre rendicontato, rendiconto tutto e restituito tutto. Ho sempre pubblicato su quel sito, finché un mese fa ci sono stati dei problemi di conteggio dei dati. Alcuni di noi hanno chiesto un'assemblea per sapere chi gestisce il sistema con le nostre informazioni sensibili, perché è stato cambiato 3 volte e non è quello che avevamo votato. Quell'incontro, però, dice l'onorevole Mucci, è sempre stato rimandato. L'ultimo mese, per protesta, ho messo i bonifici e i rendiconti sulla mia pagina Facebook. A questo punto, però, che cosa ne pensa lei del nuovo direttorio? Può essere che strutturarsi a questo punto sia necessario, ma un organismo come questo deve essere fatto a rotazione ed eletto da noi parlamentari o dai cittadini, non imposto con un listino bloccato. Nessuno vuole rompere, ma non stravolgiamo il movimento. Cioè, bisogna ricordare che questo listino di 5 nomi è uscito fuori dal blog di Grillo senza che ci fosse prima una presa di posizione dell'Assemblea dei parlamentari. E quindi, insomma, i mal di pancia proseguono all'interno del Movimento 5 Stelle. Dopo il traffico, leggiamo il retroscena di Tommaso Ciriaco e Annalisa Cuzzocrea, che, presenti davanti casa di Beppe Grillo a Bibbona, hanno un po' di notizie su come è andato questo incontro tra Grillo e i dissidenti dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, riprendiamo con i giornali oggi in edicola, diciamo Repubblica con il retroscena su come è andato l'incontro tra i dissidenti e Beppe Grillo a Bibbona. È stata la moglie a insistere più di tutti: non puoi andare avanti così, che fosse stanco, esausto, svuotato da questi ultimi due anni di piazze, giornalisti sotto casa, comizi ed espulsioni a decidere. Grillo lo aveva confessato a tutti quelli che gli sono vicini e lo aveva dimostrato nell'ultima campagna elettorale, quando il massimo che aveva voluto fare per la Calabria era stato un video poco riuscito, mentre in Emilia si era deciso ad andare solo all'ultimo momento, ritrovandosi con 100 persone al circolo Mazzini di Bologna a dire ai suoi: dovete camminare con le vostre gambe. Non arriva a sorpresa quindi il passo indietro, ma c'è stato qualcosa che lo ha affrettato. L'assedio degli attivisti toscani alla villa di Marina di Bibbona è stato il punto di rottura. Ritrovarsi a chiamare la polizia non per paura di troppi taccuini e telecamere, ma dei suoi stessi militanti, delle loro proteste, delle loro domande, è stato il momento che ha portato Grillo a dire basta. Quando si sono recati davanti casa sua, non aveva nessuna voglia di parlargli il capo, però ha dovuto far entrare Samuele Sagoni, Federica Daga, Silvia Benedetti, Massimo Artini, uno degli espulsi, però li ha fatti aspettare per 10 minuti. Riferisce Artini: è assurdo Beppe, siamo qui, aprici. Lui è uscito, ha fatto varcare ai tre il cancello, ma li ha tenuti un'ora e mezzo fuori di casa, al buio, ben lontani dalla porta di casa sua. Poi riferisce Artini: ha fatto una parte indegna, parlava dei click sul sito, diceva che ci sono milioni di visualizzazioni e che i voti non contano. Poi mi ha detto di non preoccuparmi, che tanto rimango deputato. Allora gli ho detto: vaffanculo Beppe, vai a cagare. Scusate, ma questo è quello che virgolettato. Quindi su questo si è interrotto il colloquio. È stato, quindi conclude questo retroscena nel Corriere, un vaffa a far scattare la decisione di Grillo di fare un passo indietro, decisione che poi è stata presa consultandosi insieme a Roberto Casaleggio, naturalmente. Sul tema del vaccino, sempre su Repubblica, l'intervista a Walter Ricciardi, docente di igiene al Policlinico Gemelli, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica e commissario dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha cominciato a prendere in esame i vaccini di cui si dice che potrebbero essere contaminati e che avrebbero causato 11 decessi. I campioni sono arrivati ieri mattina, martedì avremo i primi risultati tossicologici, però ci vorranno una ventina di giorni per avere una risposta certa. È difficile ipotizzare che ci possa essere un guasto, una contaminazione. Lo stabilimento di Siena della Novartis produce 60 milioni di dosi, dovremmo avere avuto migliaia di segnalazioni che non ci sono state. Penso, dice, attenzione, qui il commissario dell'Istituto Superiore di Sanità, che i decessi degli anziani che avevano effettuato le vaccinazioni antinfluenzali siano dovuti alle patologie precedenti da cui erano affetti. Certo, è un'opinione personale. Il rapporto costi-benefici resterebbe di gran lunga a favore della vaccinazione, anche se dovesse dimostrare, prosegue il commissario dell'Istituto Superiore di Sanità, che alcuni di questi vaccini hanno effettivamente causato il decesso di qualche anziana persona malata. E lui dice: lo sa che in Italia ogni anno muoiono 8.000 persone di influenza, 8.000 persone non vaccinate. Quindi la conclusione è questa: il vaccino resta positivo anche dovesse avere causato qualche vittima, sembra cinico dirlo, però l'influenza da sola ne causa 8.000 di vittime l'anno, e quindi questo è il discorso che ognuno può, diciamo, ognuno può arrivarci da solo alla conclusione. Sul Messaggero c'è un schema riassuntivo che dice quali sono i rischi che si corrono con il vaccino, quando è meglio non vaccinarsi, cosa fare in caso di reazioni gravi. Intanto leggiamo quando è meglio di non vaccinarsi. Secondo il sito Vaccinarsi della Società Italiana di Igiene, non ci si deve vaccinare se si è allergici a qualche componente del prodotto, se il bambino ha meno di 6 mesi o se ci sono in corso malattie con febbre alta. Cosa fare in caso di reazioni gravi? Il consiglio è riferirsi subito al medico di base, che è l'unico che conosce, che ci conosce, che conosce il paziente, che quindi può prendere, può capire qual è la situazione. Sole 24 ore per un titolo economico che riguarda il giudizio dell'Europa sulla legge di stabilità. L'Unione Europea all'Italia, più sforzi sul debito. Ok alla legge di stabilità, ma Roma resta sotto sorveglianza per le riforme. Il verdetto ci sarà a marzo, dunque l'ok condizionato dell'Unione Europea, di Bruxelles, insomma, della Commissione, alla nostra legge di stabilità. Dopo che si era parlato di una promozione senza problemi, qualche intoppo invece c'è stato. La Stampa si occupa della visita del Papa in Turchia, invece, in prima pagina. Erdogan ai paesi islamici: l'Occidente non ci ama, vuole soltanto sfruttarci. Il Papa: fedeli uniti contro il fanatismo. E poi l'argomento occupa anche la prima pagina di Avvenire: libertà per le fedi, il Papa in Turchia uniti contro il terrorismo, dialogo tra le religioni per superare i conflitti. Leggiamo brevemente: la violenza in nome di Dio merita una forte condanna. Nel primo giorno in Turchia da Papa Francesco denuncia le sofferenze provocate dal fanatismo. La violenza scatenata dall'IS fa paura, ma non si può affidare alla soluzione del problema alla sola risposta militare. Bergoglio da Ankara ha denunciato la violenza terroristica che, specie in Siria e in Iraq, viola le elementari leggi umanitarie. Serve un forte impegno comune che destini le risorse non agli armamenti, ma, dice il Papa, alla lotta alla fame e alle malattie, per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia del creato. Questo a proposito della visita del Papa in Turchia. Adesso, prima di lasciarci per il giornale radio, una buona notizia. And now the good news. Una notizia che non c'è sui giornali di oggi, perché è una notizia di qualche giorno fa, e non so quanto le cronache nazionali se ne siano occupate. Una piccola notizia che viene da Palermo: Graviano, anzi cattedrale vietata al figlio del boss Graviano per la cresima, è polemica. Il cardinale Romeo dice: dalla famiglia non è arrivato nessun pentimento. È successo che il cardinale di Palermo ha vietato la cattedrale, quindi la chiesa principale della città, per la cresima del figlio del boss di mafia Graviano. Le pene, le colpe dei padri non possono ricadere sui figli, ma dalla famiglia Graviano non c'è stato nessun segno di pentimento. Allora il cardinale non ha voluto accettare la cresima del figlio del mafioso nella cattedrale. Una decisione sacrosanta. Ogni tanto qualche bel segnale arriva anche dalla chiesa nelle terre di mafia. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Apriamo anche il numero verde 800 24 00 24. Dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gavardini, buongiorno. Ciao a tutti, ben ritrovati con Si può fare, insieme fino alle 10, 800 24 00 24. Si sente dal fiatone che sono arrivato in ritardo? Sei arrivato di corsa. Non si deve dire? Devo ringraziare Merano 18, così questo no, lo devo ringraziare, quelli che ti hanno aperto il portone. Esatto, anche. Sono stato in ritardo, perché ho dato indicazioni, non apritele ormai. Non aprite quel portone a Carlo Gavardini. Allora, chiedo scusa, però adesso mi ha accolto con un bellissimo sorriso e quindi sì, sono felice. Benissimo, dai. Allora, tra poco andremo a Piombino, perché insomma voglio vedere. Si va all'Elba. Voglio vedere come la città accoglie i nuovi padroni delle acciaierie, gli algerini del gruppo Cervital. Incredibile, un gruppo nordafricano che non ha mai prodotto acciaio, che non si è mai occupato di siderurgia, però l'accordo di questa settimana rileva le acciaierie di Piombino. Ma non devono essere gli indiani che prendevano C'erano in ballo anche loro. Invece, forse gli indiani si prendono l'Ilva di tanto, vediamo. Ah, però, c'è sempre posto per gli indiani. C'è sempre posto per gli indiani. Gli indiani sono grandissimi, invece gli algerini sono una new entry nell'economia italiana, però è comunque una notizia positiva perché si salvano 2000 posti di lavoro, vedremo come la città accoglie, quali idee hanno i nuovi padroni e soprattutto perché non si sono trovati investitori italiani, troppe paure per l'ambiente, per i sindacati, non lo so. Che è una domanda che ci facciamo spesso, ecco. Sì. Stiamo già parlando di sindacati, no? È troppo presto per parlare di sindacati. Aspetta un attimo, sono le 8:20, hai ragione. Beh, allora parliamo del gioco, perché noi vogliamo anche giocare. Esatto. Tra poco giochiamo. Allora, lo diciamo subito? Ma sì. Lanciamo subito sì, il gioco. Sì, lanciamo. Intanto io lancio che il numero di telefono per chiamare per il nostro gioco è 800 24 00 24. E questo l'abbiamo detto. Ho imparato a dirlo e quindi ci tenevo a dirlo anche la mattina. Se presto. Volete giocare con noi senza chiamare, interagendo su Twitter, l'account del programma @sipuofare24, il mio @AleMaurizzi. E il mio @CarloGabardini. Allora, dicevo, infatti è questo, è tornata in questa settimana l'Italia dei Guelfi e Ghibellini, l'Italia dei campanili e dei campanilismi, perché la minoranza del PD se ne vuole andare dal PD, ma questa non è una novità. No, direi degli ultimi 25 anni no. Fitto e Berlusconi litigano, però anche questa non è una novità. Questo ma un pochino è una novità, diciamo. Nel Movimento 5 Stelle espulsioni e adesso si ventilano, come si dice? Si stanno ventilando. Delle scissioni. Anche Morgan e Fedez hanno litigato. Di brutto hanno litigato. Giovedì sera. Sono volati dei diti medi, sono volate delle parole. Tra l'altro delle parole pazzesche sul programma, nel senso che ognuno diciamo, attaccava sulla strategia dell'altro e si sono scoperte cose che forse gli spettatori era meglio che non scoprissero. Allora, noi oggi facciamo così, sfogatoio, cari ascoltatori. Voi da chi volete separarvi in questo momento e perché? Per esempio, da vostra suocera, in questo caso non c'è bisogno di dare spiegazioni perché è un classico. Basta telefonare, diciamo. Oppure dal vostro collega d'ufficio, qui però ce lo dovete spiegare, motivatecelo. E fare anche nome e cognome devono, cioè è la delazione, almeno no? Il nome, almeno cioè, identificare il nome. Il personaggio è perché deve essere credibile, deve essere vera. Va bene, la funzione, diciamo, quindi 800 24 00 24. Altre idee possono essere dagli evasori, perché magari uno dice evasori via da casa mia. Vabbè, facile gli evasori, però facile. Devi dare comunque una motivazione e forse devi dare un nome. A questo punto siamo alla delazione vera. Bravo. Perché poi vincete anche una visita dalla guardia di finanza in quel caso. Oppure volete separarvi, non so, dagli immigrati, come vorrebbe far Salvini, non lo so. Questa è anche una cosa. 800 24 00 24. Adesso posso dire una cosa prima che partiamo? È bella questa. Sei il padrone di casa, Alessio. Anche puoi perché dire quello questa che vuoi. È una notizia che ci riguarda. In America è uscito un libro che è Rethinking the Positive Thinking, cioè ripensare il pensiero positivo, di una psicologa della New York University, Gabrielle Oettinger. Bisogna dirlo a Jovanotti subito. Bravo. Cambia la canzone. Sta rimettendo in discussione tutto il classico pensiero positivo americano, quello reso famoso da Oprah Winfrey, perché fu lei che sposò questa filosofia molti anni fa. Il pensiero positivo, l'ottimismo, andare avanti nonostante tutto. Adesso controordine. Bisogna lavorare sul contrasto mentale, che vuol dire pianificare il superamento degli ostacoli che si incontrano per raggiungere i nostri obiettivi, e così si raggiunge la serenità. Mi è piaciuta questa perché è un po' a cavallo con Si può fare. No, assolutamente, la notizia è straordinaria. Ripeto che è un po' meno musicale, cioè il contrasto mentale è molto meno musicale di io penso positivo perché sono vivo, diciamo. Però insomma, forse per quello che per il momento abbiamo scelto il pensiero positivo. Beh sì, ma noi siamo sempre... Ma che cos'è il contrasto mentale? Però adesso me lo spieghi. L'idea è questa. Piano piano mi sveglio, Ale. Che tu devi... non basta mettersi e dire si risolverà tutto, tutto andrà bene, sono ottimista, come i buddisti, eccetera, che è una bella cosa. Però lì si perde un po' il senso del desiderio. Invece bisogna continuare a desiderare le cose nella vita, però impegnarsi per prevenire gli ostacoli e superarli. Quindi l'ingegnosità, la creatività anche, no? Delle soluzioni. Com'è, si può fare. Certo. Cioè che ha più progettualità, diciamo. Bravo. Mentre il pensiero positivo è che io sto fermo. Stai lì, aspetti e vedi che cerchi di prendere tutto con filosofia. Qua, sì, però in realtà anche il pensiero positivo è quello. Sì, in quello che vuoi fare, diciamo, è metterci il fatto di essere positivo, che una cosa la puoi raggiungere, quindi si può fare. Quello sempre. Da noi sempre. Adesso iniziamo e andiamo a Piombino. Corri ragazzo laggiù, coda dai l'Alpe di Blu. Corri l'aiuto di tutta la gente. Corri e va per la terra, corri e va tra le stelle, tu che puoi diventare un G. Cipa, ora c'hai o Cipa. chiaro perché abbiamo scelto Gigrobo, no, per introdurre questo argomento. Cuore d'acciaio. Certo. E poi anche lui era un eroe che salvava tutti. Qua sono gli algerini a salvare. Ci voleva una versione algerina di questa canzone, c'è di sicuro, o perlomeno la faranno prima di Natale, direi, dopo questa notizia della Lucchini. Bisognerebbe cercarlo. Chiediamolo al sindaco di Piombino, Massimo Giuliani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Bisognerà trovare la versione algerina allora di Gigrobo d'acciaio, perché è quanto mai la vostra canzone in questo momento. Ma sicuramente era la mia quando ero più giovane. Vedi, è anche questo un motivo, perché insomma un po' le acciaierie sono anche legate a un periodo un po' storico. Adesso ci si chiede anche, ma l'Italia deve ancora investire su questo? Il futuro sarà su questo tipo di industria o su altro? Naturalmente argomenti che però a voi interessano fino a un certo punto, perché la città di Piombino, quanti operai ci sono alle acciaierie? Parecchi? Solo in Lucchini 2040. Ecco, quindi insomma capite bene che qui più che parlare di futuro in altre industrie, cerca di salvare questa di industria. E adesso è stato firmato l'accordo. Diciamo che è veramente ufficiale dopo tante indiscrezioni, sindaco? Ma diciamo che ora è all'esame del governo, che dovrà fare il contratto e poi farlo vedere alle parti sociali. C'è stato un grande lavoro da parte dell'amministratore straordinario, voglio ricordare Piero Nardi, che insieme al comitato di sorveglianza ha analizzato le due proposte di acquisto e poi ne ha fatta, diciamo, ne ha scelta una e l'ha proposta al governo. Voi come avete accolto questa notizia? Naturalmente bene ogni volta che c'è un'avvertenza che si chiude positivamente e insomma si annunciano investimenti e si salvano i posti di lavoro, ma questo gruppo algerino, credo, insomma, non molto noto prima d'ora, anche perché non si occupa di siderurgia questo gruppo, no? No, sì, avevano una fabbrica di acciaio, ma che fu praticamente distrutta da delle bombe circa una quindicina di anni fa, mi sembra. Ma si occupano soprattutto di agroalimentare, di scambi di materie prime appunto nel campo dell'agroalimentare. Ma voglio ricordare che hanno proprio lo scorso anno rilevato una fabbrica in Francia molto importante di elettrodomestici, e salvandola fra le altre cose e salvando le sorti di 1200 operai francesi. Poi quindi una fabbrica di elettrodomestici, hanno anche una grandissima fabbrica di alluminio e infissi di alluminio, quindi e poi importano vari tipi di cose. Ma è vero che proprio nel sito di Piombino vogliono fare qualcosa di legato anche all'agroalimentare, che sembra una cosa che non c'entri proprio nulla con le acciaierie, è così? Sì, ma diciamo che non c'entra nulla, ma che il sito di Piombino si presta anche a questa diversificazione, chiamiamola così, di sviluppo economico. L'area attualmente coperta dalle fabbriche è di oltre 1000 ettari, di circa 1000 ettari. In quest'area si può tranquillamente progettare, come stanno facendo loro, nella parte, diciamo, esterna, quindi a sud del complesso industriale, progettare una nuova fabbrica, quindi reindustrializzare, poi puntare decisamente sul porto di Piombino e nella parte centrale, e poi nella zona che è molto vicino alla città e dove attualmente esiste la fabbrica, ecco lì bonificare e fare questa nuova industria, aprire questo nuovo settore, nuovo per Piombino, nuovo anche per la Toscana. Ma cosa dovrebbe fare? Trattare in qualche modo prodotti che vengano dal Nord Africa? Perché noi sappiamo che dal Nord Africa importiamo spesso anche frutta e verdura. Sì, no, ma sì, frutta e verdura, ma no, l'agroalimentare è un agroalimentare, chiamiamolo così, ingegnerizzato, cioè okay. ci fanno oli, zucchine in alluminio fanno? No, diciamo no, fanno oli vegetali per tutti i tipi, sia per locomozione o altro, sia per alimentare, ad uso alimentare, poi mangimi per animali e zucchero. Insomma, un progetto, vedete, veramente di ampio respiro questo. Ma come mai alla fine si arriva ad un gruppo così, appunto un gruppo algerino che non ha precedenti in Italia, un precedente in Francia, però insomma finché si parla delle acciaierie indiane sappiamo che c'è una grande, tradizione, oppure di gruppi cinesi che vengono in Italia a comprare perché hanno grossissima liquidità. Perché non ci sono stati, secondo lei, gruppi italiani interessati a salvaguardare anche l'italianità di un sito così importante? Troppa paura per l'ambiente, per i sindacati, per che cosa? No, paura per l'ambiente e per i sindacati decisamente no, perché mi sembra che i sindacati della fabbrica e delle fabbriche di Piombino si siano comportati molto civilmente, non hanno nemmeno dato quell'impressione della rabbia e giustamente della preoccupazione che avevano e che hanno tuttora i nostri lavoratori. Io penso che non si sia capito le possibilità e l'appetibilità, diciamo, del sito industriale di Piombino, e reso ancora più competitivo dalle misure che il governo ha varato con l'accordo di programma del 2014, dove effettivamente c'è un vero e proprio progetto. Ecco, prima mi sembrava che parlaste di pensiero positivo e di riprogettare, sì, ovvero, e invece dall'altra parte di progettare le cose. Beh, io penso che qui si sia fatto un po' tutte e due le cose. Si è pensato a riprogettare il futuro di una città partendo dalle macerie, praticamente, da una fabbrica che era chiusa e che non trovava acquirenti, e da lì si è progettato uno sviluppo diversificato grazie alle istituzioni, ai sindacati, ai lavoratori, alla regione e al governo. E si è progettando questo, sì, è questo il segreto, penso, di Piombino, che penso possa, e spero che possa forse essere applicato anche ad altre situazioni, alle molteplici purtroppo situazioni di crisi in Italia. Io penso che si è dato un progetto, su questo si è fortemente creduto e su questo è nato un pensiero positivo. Ecco. Speriamo, insomma, che si concretizzi anche in un accordo vero, insomma, e in una ripartenza presto concreta del lavoro e anche dei posti di lavoro lì a Piombino. Grazie intanto al sindaco Massimo Giuliani di Piombino per essere stato con noi. In bocca al lupo. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, cosa ne pensate? È una buona notizia questa, l'arrivo del gruppo algerino alle acciaierie di Piombino, i posti di lavoro salvi, ma un gruppo straniero, un gruppo che non ha precedenti in questo settore. Poi perché non si sono trovati investitori italiani? Chi lo sa? È questo il futuro dell'Italia, le acciaierie? 800 24 00 24. Gabardini è senza parole. È senza parole, non lo so. L'ultima volta che avevi parlato di acciaierie era quando a scuola, quando si studiava, ti ricordi l'industria? Settore, certo, siderurgico, esatto. Toscana. Il siderurgico, non ero fortissimo sul siderurgico, adesso che ci penso. È questo, è nella sua concretezza. È questo. Anche noi non eravamo fortissimi, evidentemente, visto che stanno arrivando gli algerini e gli italiani non gliela fanno. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Mio nonno mi diceva: qualcosa devi far. Sei un baldo giovinotto ed hai le spalle forti, nei campi devi andare, la terra lavorare. Due asini e una capra da spingere e da mungere, e due galline giovani una si sposerà. La sera mi ritiro dai campi, che dolor, la schiena fuoco e fiamme, le gambe sono in panne. Mi mangio il minestrone, mi bevo un bottiglione e poi mi appoggio al tavolo, scusate se mi appisolo, e sogno la fanciulla che domani sposerò. Campagna. Non ringrazieremo mai abbastanza Alex Villani, l'autore di questo brano che ci accompagna tutte le volte. Soprattutto per scusate se mi appisolo. È fantastico. Vabbè, insomma, siamo nella settimana di passaggio del Jobs Act, dalla Camera approvata al Senato, si approverà in settimana. Noi ci approcciamo al mondo del lavoro, prima con una storia, avete appena sentito, gli algerini che salvano le acciaierie di Piombino. Adesso con le idee innovative di Rural Hub, consulenti specializzati nell'agricoltura, un settore che tira, che funziona, ma ci vogliono professionalità. Di questo di cui si occupa Rural Hub, noi abbiamo in linea con noi Alex, stamattina non ce la posso fare, Giordano, buongiorno. Ciao. Ciao. Buongiorno. Che è responsabile scientifico di Rural Hub. Intanto, cosa vuol dire Rural Hub? Così cominciamo col nome. Ma Rural Hub hub appunto è un hub che all'interno della rete si configura come un nodo e parte appunto dall'esigenza di rivedere l'agricoltura da un punto di vista innovativo, laddove l'innovazione non è soltanto, come è stato per anni, un'innovazione tecnologica, un'innovazione chimica, anzi è un'innovazione che va a riscoprire la vocazione alla biodiversità italiana, ma avvalendosi di tutti gli strumenti tecnologici, innovativi, dei nuovi media, per poter in qualche modo portare avanti imprese appunto di successo, innovative. E dal nostro punto di vista ci è sembrato un modello per lo sviluppo italiano molto interessante. Allora, una piccola premessa è questa, perché lui dice: ma di cosa state parlando? Adesso cercheremo di diventare più concreti. La premessa è questa: Alex Giordano, che voi sentite, ha studiato al MIT di Boston, è vero? Sì, io in realtà è un po' strano il mio percorso, sì, perché sono stato un innovatore, cioè nel senso che mi sono sempre occupato di nuovi media. Abbiamo fondato questo collettivo che si chiama Ninja Marketing, sono stato un po' tra i primi, tra i pionieri in Italia dell'innovazione. E a un certo punto, come dire, quando ho visto che c'era un movimento di giovani, di ragazzi che da tutto il mondo ritornavano in Italia alla terra, e molti di questi giovani sono ragazzi che hanno studiato con master, con elevate capacità tecnologiche, con una cultura superiore, che, come dire, ne abbiamo conosciuto uno, Mario, ieri proprio qui, che ci diceva: Alex, io vivevo a Londra, guadagnavo 12.000 euro al mese per sognare quei 10 giorni quando tornavo da me in campagna, ora guadagno molto di meno, faccio la vita che mi piace. Quindi a un certo punto abbiamo cercato di capire come questi giovani potessero mettere a sistema anche il loro bagaglio, diciamo, di conoscenze innovative. Ecco, però voi concretamente adesso questo gruppo, sì, che si interessa a questo fenomeno del ritorno alla terra, però applicandoci tecnologie nuove, sì, idee di marketing, di comunicazione, che tipo di consulenze date a questi agricoltori? Cosa fate concretamente? Allora, concretamente noi facciamo questo: abbiamo preso tutti questi, come dire, la cultura manageriale applicata alle start-up, tipo business model canvas, eccetera, l'abbiamo riadattati per l'impresa rurale. Il problema è che tutta questa cultura oggi si rifà al modello della Silicon Valley, che non è riproducibile per l'ecosistema italiano, e quindi abbiamo cercato di capire come questi strumenti potessero essere riadattati per un'impresa innovativa rurale. E quindi da questo punto di vista facciamo proprio formazione manageriale. E in più ci aggiungiamo una serie di possibilità date dall'utilizzo di Arduino, per esempio per l'agricoltura. Arduino è una piattaforma open source. Siamo degli esperti di Arduino, tutto di Arduino. Ne parliamo sempre con Massimo Temporelli, che è il nostro guru del futuro. Sì. Ci sono la possibilità con Arduino, con pochissimi soldi, di potersi fare un impianto di irrigazione automatica e tantissime altre attrezzature per la gestione dell'impresa agricola. Oppure facciamo dei moduli di digital storytelling per il prodotto tipico, quindi di far capire come aprirsi nuovi mercati nella rete verso mercati internazionali. Digital storytelling, ci sono sempre parole difficilissime. Sì, mamma mia, sembra di essere a un corso d'inglese. No, infatti, avevo letto invece che una delle cose che facevate è che avete messo a punto un sistema di sensori per allontanare i cinghiali dai campi. Siccome non c'è neanche una parola inglese, volevo guarda, capire. È pazzesco, perché uno dei problemi dell'Appennino, il cinghiale allontanation, ovviamente si chiamerà. Il cinghiale allontanation è una delle pratiche più richieste, in quanto sai che questo è uno dei problemi a volte di quando si risolve maldestramente un altro problema, è che per reintrodurre il cinghiale nell'Appennino, cosa è stato fatto? Hanno preso dei cinghiali non italiani, ma sudamericani. La differenza è che questi fanno cuccioli ogni 6 mesi, e ne fanno una decina, mentre quello italiano ne faceva massimo 2 all'anno. Sono e quindi abbiamo i nostri Appennini invasi di cinghiali, che quest'anno hanno rovinato la maggior parte delle culture. Quelli che si occupano di grano lo sanno bene che è uno dei problemi, e quindi adesso grazie a Arduino e come li allontanate? Sì, però, sì, ma io come li allontanate i cinghiali? C'ho anche un mio caro amico che ha questo problema sul suo campo in Toscana, dove produce albicocche e cinghiali, soprattutto gli alberi piccoli, anche di frutta, li buttano giù, se li mangiano, sono buonissimi per loro. Peccato però che io sto a Milano, quindi diciamo di cinghiali. Grazie a questi ragazzi di questo gruppo, sì, che si chiama Fonderie Digitali, abbiamo fatto una sperimentazione con Arduino che riconosce il cinghiale e con un sistema sistema molto banale, irriga delle sostanze naturali che lo infastidiscono. Lo infastidiscono e lo allontanano. Ah, perfetto. Quindi non si usa l'energia elettrica, quindi mi sembra un passo avanti. Bello. Una domanda, una domanda, Alex, però quanto può costare un sistema come questo per un campo di medie dimensioni? Dacci un'idea. Ah, guarda, pochissimo, davvero pochissimo. La rivoluzione è questa. Tra l'altro, guarda, c'è un progetto molto interessante che stiamo portando avanti, è quello di mettere su proprio un Fab Lab per l'agricoltura, ovvero un laboratorio dove con dei nostri partner americani abbiamo preso una quarantina di progetti di macchine agricole che vanno dal trattore alla macchina per raccogliere le noccioline, e c'è la possibilità non solo di autocostruirselo, quindi se uno ha gli skills se lo può costruire, o di lavorare in co-farming. Cioè, pensa a questa cosa, che un trattore può costare anche 30-40 mila euro e magari una piccola media impresa agricola lo utilizza massimo una settimana all'anno. E quindi noi con un'operazione di co-farming diamo la possibilità di fare uno sharing, di condividerlo. Ah, certo, ma non rischia di essere la stessa settimana quella che ce l'hanno bisogno tutti i coltivatori della stessa zona? No, certo, bisogna organizzarsi. Bisogna organizzarsi, l'organizzazione è alla base di tutto. Noi, io se già vuoi, capito che a me mi tocca il trattore quando non c'ho niente da tirare su, ma comunque. Se vuoi possiamo metterti in contatto con Max Temporelli, lo sentiremo tra l'altro tra poco, che è di The Fab Lab Make in Milano. Se avete bisogno di un Fab Lab a cui appoggiarvi per cominciare a andare anche verso il trattore condiviso o addirittura autocostruito. Grazie Alex Giordano di Rural Lab. Grazie mille. www.ruralhub.it. Perfetto. Io non posso pronunciarlo, tra le H, la parola inglese, l'R moscia, direi che Rural Hub io non posso pronunciarlo. 800 24 00 24. È giusto puntare sull'acciaio in Italia oppure bisogna puntare su settori nuovi, antichi, ma che tirano molto adesso, come per esempio l'agricoltura? Avete sentito la storia di Rural Lab? 800 24 00 24. Ci sentiamo tra un attimo. Potrai correre il sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta. Buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Andiamo con un po' di ascoltatori. Emanuela che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Mi volete allontanare per favore da tutta la scala B del mio palazzo? Voglio non che una separazione, un divorzio perenne. Ma che è successo con la scala B? Cosa combina? Cosa fanno? Tutto, salgono in ascensore con me e guardano in faccia e non mi salutano dopo quattro anni. Questo non è bello. Quelli della scala B e quelli della scala A la guardano. Poi salgono dietro la porta di casa mia, mettono dei biglietti allucinanti. Ma come fai a sapere che sono tutti della scala B, scusi? Che si firmano forse? È la scala dove abito io. Ah, sono i suoi vicini di casa. Scusi, io pensavo che lei fosse una che difendeva la scala A ed era contro quelli della scala B e questa cosa mi incuriosiva. No, sono quelli della mia scala. Ah, della sua scala. Cioè quelli che mi stanno a destra, a sinistra, sopra, sotto, a cui non ho fatto niente. Lo so, il rapporto con i vicini di casa è sempre complicato, ma quindi insomma non c'è dialogo con nessuno di loro. Non c'è dialogo, c'è odio. Ma sono razzisti perché è evidente che ce l'hanno con me per una serie di motivazioni. Perché lei di che razza è? Di che razza è lei? In che senso? Siciliana, razza. Ma non è una razza però. Beh, per qualcuno, sì, no, per qualche ignorantone sì, evidentemente. Evidentemente sì, poi perché qua in questo palazzo sono tutti proprietari, sono tutti meravigliosi perché hanno i soldi, eccetera. Io sono l'unica sfigata inquilina. Emanuela, cosa possiamo fare? È la stessa cosa che succede a me, anch'io nella mia scala sono l'unico inquilino. Ecco. Emanuela. Però ci saltiamo. Di invidia. Certo, l'invidia è che noi saltiamo. Non ci sono altri motivi. Cosa possiamo fare, Manuela, per fare un appello, per aiutarla, per tirarla fuori? Secondo me pagare a loro innanzitutto un chirurgo estetico che gli dia una messa a punto di quelle serie, perché qua l'unica differenza fra me e loro è che a casa mia siamo uno più figo dell'altro. Oh, brava, rivendichiamo l'orgoglio della scala B. Ma Grazie Emanuela, grazie. E loro sono orrendi, proprio sono brutti. Vabbè, adesso non esageriamo, magari ce ne sarà qualcuno carino. Emanuela, grazie per aver chiamato. Si è risolto in un problema estetico. Che alla fine io sono comunque la più bella, voi siete brutti. Comunque, i vicini di casa spesso sono causa di problemi. Io invece devo dire che nel mio palazzo vado d'accordo. Cioè, ma io anch'io con tutti. Tanto sono felice di essere l'unico inquilino, perché mi salto l'assemblea condominiale, quindi li scopro il giorno dopo dell'assemblea, tutti arrabbiatissimi. Io invece sono fresco come una rosa. Alessio da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire lì sulla vendita dell'acciaieria. Sì. Ma io sono un piccolo imprenditore e continuo a sentire il governo che dice che bisogna attrarre investitori stranieri. Invece, secondo me, dobbiamo attrarre clienti stranieri, non investitori stranieri. Noi ci stiamo svendendo l'Italia, stiamo svendendo le eccellenze italiane. Però oltre scusi che Alessio, è vero che questo rischio lo corriamo, però perché secondo lei, insomma, le acciaierie di Piombino sono in crisi da diversi anni, è molto tempo che si cercano degli investitori. Arrivano gli indiani, poi arrivano gli algerini, eccetera, eccetera, ma non arriva nessuna offerta italiana. Perché secondo lei? Perché non c'è possibilità di crescere, non ci danno la possibilità di lavorare. Ma invece gli algerini avranno questa possibilità? Ma gli algerini, può darsi che da qua a 20 anni, dopo aver acquisito il know-how, si portino le loro aziende in Algeria, in Italia resterà comunque vuota. Sì, beh, però comunque loro decidono di investire, invece non c'è neanche un italiano che ha deciso di investire nella Lucchini. Questo è un dato di fatto, non è che è stato vietato agli italiani. No, senz'altro. Ma quindi poi c'è da interrogarsi su questo. Sì, giustamente, ma poi avranno una sede legale che sarà in Algeria, probabilmente ci sarà qualche scamotage che le tasse le pagheranno da un'altra parte e non in Italia, come già succede da noi, e sono queste multinazionali che poi sposteranno in base ai loro interessi, sposteranno l'azienda dove a loro è più interessante lavorare. Va bene, grazie anche a lei per aver chiamato e aspettiamo i vostri interventi all'800 24 00 24. A proposito di lavoro, voglio dare questa notizia perché oggi, anzi 2 giorni fa sulla stampa è uscito, in Europa ci sono 20 milioni di posti di lavoro, il digitale spinge le nuove assunzioni, sembra una notizia incredibile. C'è un portale che si chiama Eures e un altro che si chiama Face for Job, sui quali insomma, ci sono in tempo reale, con un software tra l'altro inventato da italiani, che ti danno in tempo reale tutte le offerte di lavoro che ci sono in Europa. 20 milioni sono tantissime. Perché si perdono posti di lavoro nei settori tradizionali, ma l'innovazione digitale porta nuove offerte. Quindi ma se andiamo tutti, Europa, abbiamo risolto il problema italiano. 20 milioni sono tutti disoccupati, sì, italiani. Tanto l'Europa è casa nostra. È sabato mattina, non c'è nessuno di sveglio. Muoviamoci, prendiamoli noi questi 20 milioni di posti. Ricordiamo Eures e Face 4 col 4 Job. L'altro sito dove si possono trovare le offerte di lavoro. 800 24 00 24, GR, ci sentiamo subito dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E noi Questa è Guerriero di Marco Mengoni, che salutiamo caramente. La canzone scelta e proposta dalla nostra ascoltatrice Federica Ferrari. Vi ricordiamo, tanto la ringraziamo Federica Ferrari, poi vi ricordiamo che potete sempre mandarci il vostro Si può fare in musica o su il nostro account di Si può fare 24 di Twitter, oppure sui nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e il mio è @AleMaurizzi. Il vostro Si può fare in musica, ovvero un vostro modo di interpretare un Si può fare però attraverso una musica, poi noi cercheremo di fare un CD. Giusto? Anzi, in realtà il nostro sogno è quello di andare in tournée. Per fare il crano, come esatto. Direbbe, no, crano. Noi vogliamo andare in tournée e cantare. Adesso, ma io sono stonato, in come facciamo? Anch'io, stonatissimo. Facciamo il playback. Faremo dei corsi, allora, impareremo. Si può fare, Ale. Allora, intanto per il gioco, perché noi, visto che insomma è tornata l'Italia dei campanili, abbiamo detto Guelfi e Ghibellini, la minoranza del PD litiga con i renziani, Fitto e Berlusconi litigano, il Movimento 5 Stelle minaccia scissione. Allora, anche ma lei. Cioè, anche noi due. Anche Fedez e Morgan hanno litigato X Factor, insomma la settimana dei litigi. Allora, cari ascoltatori, voi da chi vi volete separare, vi abbiamo chiesto, e dovete dirci il perché. Ci scrive al 349-238-6666, visto che la signora ha chiamato prima che si voleva separare ai suoi vicini di casa, ma che si è fumata quella della scala B e le avete dato pure corda. È qualcuno della scala B, la cosa interessante è sapere se questo è qualcuno della scala B o è qualcuno della scala A, perché prosegue. Abbiamo avuto un'ascoltatrice che diciamo ce l'aveva con quelli della scala B. Evidentemente prosegue il mobbing nei suoi confronti, esatto. Anche via SMS. Poi separatemi dal politicamente corretto, dai dispensatori di illusioni, ipocrisie, vestiti di bianco e non, scrive Jean. Forse ce l'ha con noi, perché noi dispensiamo un po' di illusioni, ci proviamo. Forse sì. Dici che ce l'ha con noi? Ma forse. Vogliono separarci? Velatamente. Siamo già stati separati troppi weekend di sostituzione e quindi non voglio assolutamente separazioni. No, invece su Twitter, ecco. Tonio Monda scrive: da pedone, giusto, Doc, mi libererei dai troppi automobilisti che non ti fanno attraversare sulle strisce. Oppure invece sulla vicenda Lucchini ci scrive Guido, tra parentesi il Tirreno, forse era un giornalista. Seguo da tempo la vicenda Lucchini, Cevital riassume tutto e diversifica: zucchero, vetro, agroalimentare, albergo, benvenuti gli stranieri, dice a proposito dell'arrivo degli algerini a Piombino. Franco da Treviso, buongiorno. Franco? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Sono abbastanza perplesso del tenore delle conversazioni che tenete con gli ascoltatori. Dal punto di vista economico, se si vuole intavolare un discorso così scientifico, voi naturalmente con il vostro grado culturale avete tutte quante le informazioni per capire profondamente perché gli imprenditori italiani non investono più in Italia. Ma noi lo chiediamo agli ascoltatori, prima mica possiamo dare noi tutte le risposte. Ma poi io non ho nessun grado culturale, non sono il giornalista, sono lo stupido dei due. Ci dica lei, perché io ho fatto questa domanda, ho detto arrivano gli algerini, è una buona notizia, cari ascoltatori, e perché? E perché invece non sono arrivate imprese italiane? Ci dica lei che cosa ne pensa, senza fare tutti questi preamboli sulla nostra ignoranza o meno, che c'è sicuramente, però insomma, Franco. Il motivo principale per cui un investitore straniero arriva in Italia è quello di portarsi via il know-how. Probabilmente sono quei paesi dove le materie prime ci sono, ma manca la capacità produttiva e la capacità di trasformare la materia prima. Cioè non sono qua per investire, secondo lei, ma solamente per portare via il nostro know-how? Assolutamente no, in quanto c'è un problema di costo del lavoro, di costo dell'energia, di logistiche inesistenti e di infrastrutture inesistenti. Vabbè, Franco, questa è una spiegazione possibile, l'abbiamo già sentita in altri casi, quando si è parlato di gruppi cinesi arrivati in Italia a rilevare altre aziende, e quindi questa è una possibile spiegazione. Allora, rilanciamo anche il gioco però, perché si vincono i biglietti per la mostra di Chagall e anche il prezioso catalogo. E bisogna assolutamente telefonare, cioè l'SMS non vale. Noi se ci fa ridere lo leggiamo, ma però in realtà non vale per il concorso, e soprattutto raccontarci delle storie personali, che è la cosa che ci sembra più interessante. Da chi volete separarvi, da vostra suocera, io ho detto, in questo caso probabilmente non ci serve una spiegazione perché questo è un grande classico. Oppure colleghi d'ufficio. Sono filtrate al centralino, secondo me, quelle delle suocere, perché sicuramente ce ne sono tantissime, ma giustamente, diciamo, la nostra centralinista parteggia per le suocere. Marco d'Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Un attimo che tolgo il viva voce, così ci sentite meglio. Pronti? Sì. Vale. Innanzitutto vorrei, giusto così, un'attenzione, a me non esiste, mi vorrei separare da questo sistema schifoso e andarmene. Questo sarebbe il mio sogno. Veramente. Il sistema è cosa intende per il sistema? Il sistema grammaticale di Amemi, no? No. Proprio il sistema politico. Andarmene, via, fuori dall'Italia. Quindi fuori, staccarsi andare, dall'Italia. Alzare. Sì. Però al contrario di altri, invece che dire devono andare via tutti i politici, lei sta dicendo che vuole andare via lei. Ma i politici ci hanno messi gli italiani che continuano ad andare a votare. Ce li abbiamo messi noi, siamo noi gli italiani, no, non è che sono altri. Io sono 15 anni che non vado a votare, quindi io non ce l'ho messo sicuro, cioè avete messi voi, ma anche i vostri. Non votando è una scelta, non è che uno dice, non è che uno si può chiamare fuori perché non ha votato. Ma lei col sistema attuale sceglie il politico, gli viene imposto, cosa sceglie? Ma certo. Di che sta parlando? No. Ma di cosa sta parlando? Del fatto che lei non vota, del fatto che lei non vota e dice. Io lo scelgo comunque. Se io vado a votare, il nome mi viene imposto. Non va siamo bene. In democrazia. Marco, lo sappiamo cioè, come funziona. Marco, lo sappiamo come funziona. Lei può scegliere. Può scegliere di non votare. Ha scelto di non votare. Tutti quegli imposti, ce ne sono tanti. Può scegliere uno piuttosto che l'altro. Questo voleva dire Gabardini. No, può scegliere un partito, non può scegliere una persona. Stanno cambiando la legge elettorale in questo momento. E quindi, insomma, ecco, Marco, mettiamo agli atti che vuole staccarsi dall'Italia. Questo l'abbiamo detto. Voleva intervenire anche sul resto, Marco? È evidente, gli algerini pagano, sì. Hanno la sede legale in Algeria, quindi pagano le tasse. È quello che ha fatto poi anche Marchionne, no? Ha spostato la sede legale in Olanda, le tasse si pagano in Algeria, non le pagano in Italia e quindi sopravvivono, prendono tutto il know-how, se ne vanno, o meglio, lo tengono finché posso gestirla, finché va. Poi prendono e se ne vanno, le tasse le pagano in Algeria, arrivederci e grazie, ma voglio dire, è evidente, no? Lo fanno tutti, quindi nulla di nuovo sotto il sole. Insomma. Va bene Marco, grazie per averci chiamato, per averci dato questa spiegazione, per la verità non molto, diciamo, non ci rincuora molto, non è molto consolatoria, vedremo se hanno ragione gli ascoltatori, però questo lo capiremo solo tra qualche anno. Un ascoltatore ci scrive, non voti, tieni la bocca cucita, punto. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Binario 3, un rapido con destinazione andar via. Per quelli che ci credono che spostarsi li salvi e comunque sia, ma due militari su una panchina, voglia di donna, voglia di casa, voglia. Parte di spalle fa l'occhiolino, vive nei cessi, spesso ne ha prese tante. E ancora, dove fermano i treni? Manca un po' di vita da dove fermano i treni. È proprio là dove fermano i treni, manca sempre un'altra varietà. Manca sempre un nuovo varietà. Chi arriva e chi viene lì solo a guardare. Adesso parliamo della carovana per i diritti dei migranti. Insomma, al di là quando si parla di immigrati, di come la si pensa su questa questione, da ricordarsi che parliamo di persone umane, spesso perdono la vita in questo viaggio, persone che vengono da luoghi dove ci sono povertà, guerra, dove nessuno di noi vorrebbe vivere. Poi altro discorso è quello di come gestire i flussi migratori, la politica che devono fare i governi. Adesso noi ci interessiamo dell'aspetto umano. Ogni anno in Centro America, riunendosi in Messico, c'è una carovana, sono le madri di centinaia di uomini scomparsi nel più grande corridoio migratorio del mondo. Quest'anno partecipa a questa iniziativa anche l'Italia, perché il Mediterraneo è un altro grande punto dove ci sono persone che muoiono. Soltanto cittadini tunisini negli ultimi anni sono 500 le persone scomparse di cui non si sa più nulla. E allora ne parliamo con Gianfranco Crua, che è responsabile per la carovana dei migranti in Italia. Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. La sua introduzione dice già molte cose. E sentiamo una parola che adesso sta prendendo le prime pagine dei giornali, che è quella dell'invasione. Ci stanno invadendo. In realtà queste persone, gli invasori normalmente sono gli eserciti che invadono altri paesi. Queste persone fuggono dagli eserciti, come ha detto lei, fuggono dalle guerre. E molti di loro, della primavera araba, sono scappati per le loro idee politiche. Sono morti nel Mediterraneo e adesso 500 famiglie tunisine stanno cercando i loro figli in Italia. Loro sostengono che siano arrivati. Ovviamente, come ha detto, sono persone, non sono numeri. L'umanità prima di tutto, se no noi torniamo indietro nei secoli. Questa piccola carovana partita umilmente da Lampedusa è frutto di una rete di associazioni torinesi, accompagna in questo viaggio la carovana, idealmente la carovana delle madri messicane che cercano i loro figli, accompagna qui con noi, ci sono testimoni messicani, c'è una madre messicana, ci sono una madre e un padre tunisino in rappresentanza di queste 501 famiglie che cercano disperatamente i loro figli. Gianfranco, lei mi sembra che abbia spiegato benissimo tutto il significato di questa iniziativa. Cosa, come si concretizza poi tappa per tappa? Siete partiti da Lampedusa, dove vi trovate adesso? Che cosa fate, degli incontri per sensibilizzare le persone? Noi, come... Sì, facciamo incontri con i gruppi che lungo la penisola resistono e che accolgono le persone senza nessun problema. Siamo in questo momento nella chiesa di Padre Patriciello, nella Terra dei Fuochi, e ieri sera quando siamo arrivati, le madri che hanno al collo i figli morti per cancro hanno accolto le madri messicane e tunisine. In qualche modo la devastazione del territorio è una delle conseguenze che spinge la gente ad andarsene dai propri paesi. Ci hanno accolto con le campane in festa, un sacco di gente ci ha aspettato. In tutta Italia gli incontri sono piccoli così perché non siamo nessuno, però sono carichi di intensità. C'è un sacco di bella gente in Italia che resiste e che aiuta queste persone, che li considera persone. E beh, giusto ricordarlo questo. Che... Senta, ma una curiosità, noi quando parliamo del traffico dei clandestini ci riferiamo poi ai trafficanti come mercanti di morte spesso, perché molte persone poi muoiono durante il tragitto, però visto che il punto di partenza è che si tratta di persone che cercano di seguire un loro sogno, il desiderio di andare a vivere altrove, non sarebbe più giusto parlare di mercanti di sogni? Cioè cambiare anche un po' il punto di vista su questo, perché li consideriamo esseri spregevoli che si fanno pagare per trasportare queste persone, ma chi invece utilizza questa possibilità, cioè la persona che scappa dalla Siria o dal campo profughi, in realtà vede nel trafficante qualcuno che lo aiuta, certo. O no? E certo, la vittima è il carnefice, cercano necessariamente quella è l'unica loro possibilità che hanno, non hanno la possibilità di venire qua con un passaporto come per noi andare in Norvegia, e quindi si devono affidare all'unica possibilità che hanno. Per loro questo è il tramite, è il doganiere che li porta dall'altra parte. Questo è terribile perché se li lasciamo nelle mani di queste persone, questo nostro paese rischia di diventare una terra di nessuno, dove i migranti non vengono regolati da un governo o da uno Stato che ha un ragionamento, ma vengono lasciati nelle mani dei camorristi, degli indranghettisti, della mafia, e loro sono già questi settori criminali, sono già strettamente legati con i criminali messicani. Il network dell'illegalità è molto più forte del network legale. Senta Gianfranco, se no poi dicono che siamo buonisti e che chiudiamo gli occhi di fronte a certe questioni. Cosa ne pensa lei di quello che dice la Lega, ma anche Fratelli d'Italia e altre forze politiche, cioè che se noi siamo, diciamo, in grado di aiutare gli immigrati qua, di essere così solidali nei loro confronti, di creare questa accoglienza, in realtà incentiviamo delle persone a venire qua quando in questo momento, per la crisi economica, per le difficoltà che ci sono già in Italia, non ce n'è, non ci sono anche possibilità di lavoro. Come la mettiamo su questo? Lei che la mettiamo che il ragionamento più semplice è quello: se li lasciamo a casa loro, gli diamo gli strumenti per vivere, sopravvivere, per crescere, e loro non vengono più qua. In realtà noi non da almeno 100 anni, se non di più, noi non è che diamo a loro la possibilità di crescere, di vivere nel loro paese, anzi facciamo di tutto perché loro dal loro paese scappino, non solo con le guerre, gli rubiamo le terre, gli costruiamo impianti petroliferi che gli devastano, e loro sono costretti a... Quello lì mi sembra buonismo, cioè mi sembra di fare che sia esattamente il contrario, che si dica appunto ma no, devono stare al loro posto perché qui non ce la facciamo. È inarrestabile, finché noi non fermiamo quello che succede laggiù, loro continueranno a venire qua. Possiamo far finta di tutto, possiamo dire no, devono crescere là, portiamo lo sviluppo. E sono centinaia di anni che cerchiamo di portare lo sviluppo. il risultato è questo, che noi siamo stati a Niscemi, dove ci sono le antenne del MUOS, per dire, e lì la popolazione di Niscemi sta scappando. Cioè, noi abbiamo già delle realtà dove i paesi si svuotano. Certo. E quindi mi sembra che, cioè, non possiamo spostare, il sud si sta spostando verso il nord. Ma le volevo chiedere sulla Groenlandia. Può fare una domanda a Francesca, che è qua con me e che ci tenevo. Certo, la faccio entrambi. Volevo sapere se in questa carovana di migranti, di donne che stanno cercando i loro figli, se poi accade delle volte che trovano i propri figli che pensavano di non ritrovare mai più. Sì. Ripeto a Francesca la domanda, e se hanno già trovato dei figli le messicane, ad esempio. Tanto buongiorno. Buongiorno Francesca. Dunque sì, alcune donne messicane hanno trovato i loro figli. Con noi abbiamo una testimonianza di una madre che dopo 17 anni che aveva perso il figlio l'ha ritrovato proprio grazie alla carovana. Questo viaggio? Sì, lei ha ritrovato suo figlio dopo 17 questa anni che bellissima. L'aveva perso. Sì, succedono anche cose belle, per fortuna. A noi ci piace raccontarle, è per questo che ci tenevamo a dire che ha una sua utilità, che non è solamente simbolica, e che poi nella pratica ci sono effettivamente 500 e più donne che cercano i propri figli, e quindi esatto, che quando ne trovano uno poi ce n'è 499, cioè ha una sua utilità iper pratica, e di questo vi ringraziamo molto. Sì, noi speriamo che l'altra utilità pratica sia anche quella proprio di sensibilizzazione nello stesso tempo, cioè noi quello che stiamo facendo è anche raccogliere delle testimonianze, cercare di quindi anche di riuscire a passare un messaggio a questa carovana, oltre ad avere questa utilità pratica che potrebbe essere quella del ritrovare i figli, e anche proprio come diceva prima Gianfranco, per ricollegarmi al suo discorso, è proprio quello di far capire alle persone che questo è un processo inarrestabile, e quindi quello che vorremmo fare è anche un'attività di sensibilizzazione, conoscenza e sensibilizzazione. Perfetto, va bene, grazie mille, grazie, in bocca al lupo a Francesca e anche grazie a Gianfranco Crua, naturalmente grazie, responsabile della carovana dei migranti in Italia. 800 24 00 24, dobbiamo fare la pausa o facciamo la pausa? Ci sentiamo tra pochissimo. Allora, si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta con gli ascoltatori. Gino che ci chiama da Cosenza, buongiorno. Salve, buongiorno a tutti, buon fine settimana. Io mi separerei, se fosse possibile, ma è molto difficile, da tutte quelle persone che sono tante, si nascondono nei bar, dietro le edicole, ovunque, nelle piazze. E chi dicono, sono? E sono quelle persone che dicono continuamente: io me voglio andare dall'Italia, l'Italia è un paese che fa schifo, non ce la faccio più. Perché sono quelle persone che A, non se ne andranno mai dall'Italia, e B, sono, le reputo come persone, adesso scherzi a parte, sono portatori, come dire, malsani di negatività, una negatività capricciosa, una negatività che non, diciamo, che non Gino, che sta diventando una specie di posa, una, come dire, un atteggiamento che diciamo in società, che fa figo, no? Dice: me ne vado perché l'Italia è un argomento di discussione, e quindi diciamo ci stai assolutamente venendo a prendere, perché eravamo qua e parlavamo esattamente di questo, stavamo proprio parlando di quanto le persone che chiamano dicendo sempre tanto me ne vado, voglio andare via, e poi restano sempre qui. Poi scusi, perdonami se ti interrompo. No, prego. Innanzitutto, veramente lo dico, sono una persona che io viaggerei continuamente, amo il viaggio in tutte le sue forme, è secondo me l'esperienza di vita che più di tutto e di tutti dà, e quindi insomma non è che c'è da parte mia una preclusione verso l'estero, assolutamente. Quello che dico è che non capisco il motivo per cui non vanno via, cioè nel senso, adesso per andare a Berlino, per arrivare a Berlino, per arrivare a Londra, a New York, non ci vogliono più 32 ore di viaggio sulle navi, cioè ci vogliono 100 euro per viaggiare in Europa, 2 ore, e non è vero nemmeno il vincolo familiare o affettivo, perché conosco gente di 40, di 42 anni che veramente per motivi di lavoro viaggia continuamente dall'Europa e niente, a 40 anni è stata costretta ad andarsene all'Italia. Quindi... Giusto, va quindi bene, tu dici, invece che dire me ne vado, andate a fare un biglietto e andate. Non è facile poi per alcuni, insomma, magari mettere, diciamo, in pratica questo progetto di andarsene, però giustamente Gino da Cosenza si vuole separare da quelli che lo dicono e poi non lo fanno. Allora dice, se uno non sa già che non lo farà, che non lo dica che se ne vuole andare dall'Italia, ma più che altro Gino secondo me ce l'aveva un po' con chi sparge, diciamo, dosi di negatività. Ecco, e su questo chiaramente noi Si Può Fare siamo abbondantemente d'accordo. Mauro da Bergamo, buongiorno. Mi sta venendo la tosse. Buongiorno. Ma io concordo pienamente con il pensiero di Gino. Io dico, io mi sono separato, non voglio dire mi voglio separare, io mi sono separato da quelle persone che si lamentano sempre. Io faccio 12 ore al giorno per 365 giorni all'anno, lavoro sempre. Che lavoro fa Mauro? Ho un'azienda dolciaria. Perfetto. E lavoro sempre. Mi ritengo tra quelli fortunati. In questo periodo avere un lavoro è una fortuna. È un settore che tira quello dei dolci, va bene? Diciamo che non è che tira come 10 anni fa, però si lavora, si arriva alla fine del mese. Lei ha molti dipendenti, collaboratori, insomma, o fa tutto da sé? Siamo in due. Ok, ok. Ci sono persone che hanno attività analoghe o attività che lo stesso funzionano, che ogni giorno la domanda è: come va? E la risposta è sempre la solita: siamo nella M, ma non è possibile, stai andando bene come sto andando bene io, non dico bene che stiamo diventando ricchi, si arriva alla fine del mese. È vero Mauro che c'è una cosa che anche chi ha dei problemi veramente, non trova lavoro, certo, si impegna ma non riesce, è giusto che si possa sfogare, lamentare, lo possa dire tranquillamente e cerchi aiuto. Però c'è anche molta gente in cui le cose vanno discretamente e però poi pubblicamente si lamenta, perché come dicevamo prima è un po' diventata una posa, una moda, e quindi oppure dire che uno sta bene sembra quasi che bisogna, non so, vergognarsi, perché nei confronti degli altri magari a cui le cose siccome non vanno bene. Siccome stanno tutti male, allora bisogna stare male. Esatto, però questo è sbagliato, vero Mauro? Sono d'accordo con lei. Io ti dico, io ho due figli, porto avanti ben discretamente la mia famiglia, non manca niente a nessuno. Posso dire, in questo periodo che stiamo vivendo, sono tra quelli fortunati. Perché devo lamentarmi? Giusto. Va bene Mauro, grazie mille, grazie per averci dato questa piccola dose così, diciamo, di ottimismo, di... Speravamo di vincere anche un panettone, è il pasticcere fa. E invece Mauro che si candida a vincere i biglietti e il catalogo per la mostra di Chagall, così come tutti quelli che chiamano per dirci da che cosa vogliono separarsi. Abbiamo preso spunto dall'attualità con tutta questa voglia di separazione, di litigi in casa PD, in casa Movimento 5 Stelle, Fitto e Berlusconi, poi abbiamo detto pure Morgan e Fedez hanno litigato a X Factor. Però nessuno ha minacciato di andarsene questa volta, no? Questa da X Factor, dici? No, già fatto poi. Ma era uno degli oggetti del contendere, diciamo, perché Fedex accusava Morgan che la sua fosse una strategia. Però, su quella cosa della strategia, ma secondo me ha colto un punto vero, punto vero Fedex, è stato bravo. Facciamo un altro ascoltatore al volissimo, dai, Paolo da Roma. Pronto? Paola, buongiorno. Buongiorno. Sono Paola da Roma. Sì. Allora, io mi vorrei separare da tutti i giornalisti, purtroppo anche da quelli di Radio 24, certo, che usano male le parole latine. Aiaiai, casco dentro. Vediamo qua. Io anche, ma non sono giornalista. Facciamo una prova, vediamo se la sbagliamo. Ma perché chiamarlo summit? Si dice summit, vero? Sì, se latino. Non sai il latino, chiamalo vertice. Però anche questo, Paola, è una questione di come dire, la media ormai dice summit perché lo pronuncia all'inglese. La media, e quindi uno si sente strano se dice summit. No, non è strano se dice summit, perché quando ci sono le parole inglesi abbiamo imparato a dirle. Allora diciamo weekend, diciamo un sacco di cose. Poi quando sono venuti i neologismi, adesso specialmente con internet, li abbiamo imparati. Che altra parola? Poche parole latine, ma quando si sente dire Juventus Stadium, ma benedetta persona, Juventus è una parola latina, quello dopo sarà lo Juventus Stadium, se no dovresti dire la Juventus Stadium. Altre parole, via, un altro esempio. No, poi ci sono i tormentoni, non ne posso più di quant'altro. non ne posso più di al piuttosto che piuttosto invece che. Di ecco, poi soprattutto come la capisco? Una annotazione sì? ai giornalisti, a voi che siete due persone in gamba, intanto Carlo Gabbardini è in gamba, scrive, parla, sta alla radio, fa un sacco di cose, quindi basta di dire sono lo stupido dei due, non è va, vero che lo stupido la ringrazio, dei due. Mi commuovo se dice così, però è vero che sono lo stupido dei due. Ma non è vero, non saresti lì perché non si prenderebbe uno stupido vicino lui, certo, sicuro, questo non è vero. Ho capito. Quindi dici che è un tormentone che ha stufato anche questo? Oh, assolutamente, è diventato vabbè, un che Paola, però, cioè, scusa Paola, tu avevi a disposizione una cosa da dire da cui ti volevi staccare, adesso hai detto le parole latine pronunciate male e le dire, mo pure Gabbardini, anche da me. Basta, no. I tormentoni, io avevo detto i tormentoni, ecco, con giusto, questo Paola, giusto. Con questo Paola si candida a vincere i biglietti per l'amore, intanto la salutiamo, i biglietti e il catalogo per la mostra di Chagall. Grazie. Tra poco, entro qualche minuto, tutti noi, la redazione, Giorgio De Luca e noi qua, ma anche Peter Bescapè regia, decidiamo. Facciamo un summit. Chi direi vince. Che facciamo un summit. Facciamo un summit e non un summit. Adesso è il momento di guardare in avanti, molto in avanti, perché parliamo dei lavori del futuro con Max Temporelli. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Massimo, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, ciao, buongiorno, Alex, ciao Carlo. Presidente ciao. Di The Fab Lab Make in Milano. Stamattina, mentre parlavamo con Alex Giordano di Rural Lab, che insomma, ha detto vuol mettersi un Fab Lab per autoprodursi delle cose, per lavorare, strumenti per lavorare in campagna. Gli ho detto di farsi vivo con voi perché magari gli date una mano. Ci mettiamo subito in connessione. Ti ricordi che avevi parlato, uno dei primi lavori del futuro era proprio il insomma, contadino urbano. Ma hai mal di gola, hai mal di gola, hai preso mal di gola, no, stando no. troppo su internet. Sì, sì. È troppo no, impegnato è con è troppo impegnato con inaugurazioni, interviste alla RAI. Adesso dopo che l'abbiamo chiamato noi ha fatto avete l'intervista. Portato fortuna. Hai visto alla RAI insomma, in un sacco di posti, Massimo. Sì. Il nostro esperto. Fisico, scrittore, divulgatore, il nostro uomo del futuro. Oggi di che lavoro del futuro ci vuoi parlare? Il mio preferito, perché ha a che fare con una delle discipline che amo di più, e che è la robotica, e sembra emergere una professione che sarà l'addestratore dei robot. E provo un po' a spiegarvi, a spiegarmi anche, perché sono tutte cose che capiamo anche mentre ne parliamo, che cosa saranno i robot del futuro. Sì, anche perché tieni conto che noi siamo rimasti all'addestratore di cani. Esatto. Che sembrava un lavoro, una professione del futuro. E di pulci anche. Ma di pulci. Ci assomiglia tantissimo, e molto probabilmente più che gli informatici e gli ingegneri saranno proprio loro da cui impareremo a fare questo lavoro, perché adesso vi spiego, saranno simili a degli esseri viventi i robot, e cerco di spiegarvi come senza spaventare nessuno, e quindi serviranno più dei cognitivisti più che degli ingegneri, dei softwareisti, perché appunto i robot ormai lo sappiamo, ce li abbiamo in casa che ci puliscono i pavimenti, nelle aziende si occupano dell'automazione industriale, noi nei Fab Lab li costruiamo con i ragazzini per farvi vedere come funzionano, però questi non cioè, sono i robot che noi sono l'unico senza robot, direi, da quello che sì. stai descrivendo. Io non ho un robot in casa che mi fa le pulizie. Veramente? Sì. Vabbè, sarà il sì. regalo di Natale di Alessio. Va bene. Non volevo interromperti, ottimo, scusami. Ottimo. No, comunque, insomma, il fatto che ci siano dei robot che tecnicamente vengono chiamati non autonomi, cioè che tu devi programmare o fanno azioni semplici, insomma, spostano il circuito, il chip da un banco all'altro, ti puliscono il pavimento, oppure hanno pochi sensori che sanno gestire. Quelle sono cose che ormai in qualche modo siamo abituati a vedere in questo nostro bellissimo pianeta. Quello che ci aspettiamo, che io auspico succeda al più presto, è che già nei laboratori sta venendo fuori, sono i robot autonomi, quelli che ci assomiglieranno maledettamente, cioè che sapranno prendere delle decisioni in funzione a un ambiente che andrà a cambiare. E queste cose già si vedono, già esistono, e qualcuno li sta già producendo per la vendita. Allora, qua si arriva al punto, cioè avremo dei robot che dovranno imparare a fare delle azioni in un ambiente, e qua ci serviranno delle persone, appunto degli addestratori, che per l'imprinting, proprio come si fa con un bambino, insegneranno al robot a fare delle azioni, perché gli scienziati stanno costruendo dei robot non più con degli algoritmi, se succede questo fai questo, ma ti do delle opzioni e tu davanti a queste opzioni, si chiamano pattern, devi prendere delle decisioni. E prima di insegnarli, cioè prima che lo facciano autonomamente, bisogna insegnarli. Cioè, ci saranno delle persone, degli educatori che insegneranno: questa è una pallina rossa, cade, rimbalza e non si rompe, questa è una pallina rossa, gliela fanno vedere 100.000 volte. Quando loro rivedranno una pallina rossa di quel tipo, sapranno prendere una decisione. Quindi adagiarla piano piuttosto che farla cadere. È come un bambino, bisogna spiegargli tutto. Ma non conviene avere un figlio piuttosto che un robot non autonomo? Cioè, uno si compra un robot e dice: porca miseria, ne ho comprato uno non autonomo. Sì, dipende se poi tu quell'essere vivente o essere artificiale lo devi mandare in una miniera a scavare. Allora conviene avere un robot. Allora conviene avere un robot, mandarlo su Marte. Però lo illudi allora. Cioè, lo prendi non autonomo, gli insegni qual è la pallina rossa, però in realtà lui dovrà tirare su del carbone. Tanto vale che gli insegni solo il carbone. Senti Massimo, diciamo una cosa, possiamo dirlo. Uno di questi robot molto all'avanguardia ci sarà anche in un programma TV che ti vedrà protagonista tra qualche tempo. Possiamo ancora parlare nello specifico. Bravo. Però sì, ho avuto la fortuna grandissima di lavorare per un programma televisivo bellissimo di cui parleremo magari più avanti, ma soprattutto di essere uno tra i primi esseri umani a lavorare con un robot, che è uno di questi robot. È un robot, di quei robot che impara le cose mentre le fa, che è una cosa... Uno lo vedremo più avanti, tra poco, Virgil, che fa le visite guidate al castello di Racconigi a Cuneo. Vedremo di capire come ci azzecca, cosa ci azzecca il robot con il museo di Cuneo. Un altro è quello che vedremo in TV con Massimo Temporelli più avanti, ne parleremo. Max, io direi che ci possiamo salutare qua. Volevi aggiungere qualcosa? Ringrazio. O ci sentiamo sabato prossimo? Vediamo nel prossimo futuro. Va bene. Speriamo che non ci sia un robot non autonomo al quale poter insegnare a fare la radio, perché sennò il mio posto lo vedo molto molto a rischio. Saremo tutti finiti. Ciao Max. Ciao Massimo, grazie. 800 24 0024, traffico. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, riprendiamo con qualche intervento. Franco da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Io ho sentito questo intervento di questa iniziativa senz'altro buona delle madri messicane, no? Premetto che ho fatto quasi 28 anni di volontariato in Africa, io sono tutte lodevoli, però emozionano, però non sono per nulla risolutive. L'unica, io vorrei esortare voi, soprattutto giornalisti e i media, che aggrediscano quello che è il vero problema, cioè di indurre i politici a interessarsi verso una collaborazione effettiva con gli stati dai quali provengono queste popolazioni che fuggono perché vedono che in altri paesi si sta meglio. Loro devono avere aiuti industriali per la loro agricoltura, come facevamo anche noi, dei pozzi a suo tempo, non aiuti con la tecnologia avanzata. Questa è solamente questa la via seria per poter affrontare il problema. È vero, il problema però è che quando poi si parla di cooperazione internazionale l'Italia è un po' agli ultimi posti, perché quanto a finanziamenti. È vero anche che bisognerebbe poi sentire cosa ne pensano quegli stessi partiti che dicono aiutiamoli a casa loro, se poi ci fossero voci di finanziamento grosse sulla cooperazione internazionale, perché magari si sentirebbe qualcuno dire ma sono soldi che devono andare prima agli italiani. Quindi è sempre un problema affrontare questa questione. Sì, però, e soprattutto adesso è anche l'invito... un po' una situazione emergenziale, voglio dire, quello che sta succedendo in Libia, in Siria, è al di là, nel senso che uno può anche decidere di dargli una mano nel loro paese, ma in questo momento se c'è una guerra in corso uno scappa dalla guerra. Anche se ci sono le fabbriche, uno scappa. certamente, però sono succedute le guerre anche in Europa, non è che la gente deve per forza scappare dal proprio territorio, non è questo il reale problema. Beh, guardi, Franco, capisco il suo punto di vista, però dobbiamo ricordarci che tutte le volte che ci sono state delle guerre, una delle conseguenze maggiori, principali, è sempre stata quella di onde migratorie, gente che scappava dalla guerra, perché è la cosa più semplice da fare. Comunque, accogliamo anche la sua opinione, il suo punto di vista, lo salutiamo qua, siamo in chiusura, però vogliamo, come abbiamo annunciato, parlare di Virgil, il primo robot guida per le visite ai musei. Siamo a Racconigi in provincia di Cuneo e diamo il buongiorno a Claudio Germac, che è professore di disegno industriale al Politecnico di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Oh, allora, sentito noi, insomma, con Massimo Temporelli, oggi proprio abbiamo affrontato uno dei mestieri del futuro e lui ci diceva addestratori di robot. Voi avete qualche addestratore per Virgil? Sì, abbiamo degli addestratori. Virgil è un'operazione multidisciplinare che è nata all'interno di questi laboratori che si chiamano JOL, cioè Joint Open Lab, dove lavorano ricercatori giovanissimi, l'età media è di 25 anni, ci sono ingegneri meccatronici, appunto detti robotici, ci sono ingegneri delle telecomunicazioni, ingegneri informatici, ma ci sono anche architetti e designer, e tutti insieme lavorano per realizzare delle innovazioni che non sono tanto innovazioni di prodotto, ma innovazioni di servizi, perché oggi la tecnologia ha questo primo obiettivo: prima di definire prodotti, definire un buon servizio partendo dalle esigenze dell'uomo. Ecco, appunto, perché il servizio che offrirà Virgil a Racconigi, che tra l'altro inizierà credo tra qualche giorno, perché non è ancora iniziato, l'8 dicembre. Inizia la sperimentazione tra qualche giorno e poi a marzo del 2015 l'operazione sarà a regime, così come si dice, quindi si potrà visitare il museo di Racconigi e vedere i suoi beni nascosti, perché ecco, questo era l'obiettivo principale. Esatto, qual è la funzione che svolgerà questo robottino? Insomma, non è che accade spesso che uno arriva in un museo e si trova il robottino che gli fa da guida. Esatto, noi abbiamo stimato che in Italia, almeno in Italia, nei musei medi o piccoli ci sono almeno il 30% dei beni che non sono visitabili. E non sono visitabili per tre condizioni: o perché mancano le condizioni di sicurezza per l'accesso del pubblico, o perché sono in cantiere in fase di restauro, oppure perché sono depositi di beni che non sono ancora stati archiviati e non sono nemmeno stati organizzati per renderli visitabili. Quindi abbiamo pensato di arricchire l'esperienza della visita museale facendo vedere anche quei beni che non sono temporaneamente visitabili. Quindi Virgil li vede per noi e poi ce li fa vedere in qualche modo. Esatto, li vede per noi e ce li fa vedere, però il soggetto, oltre a questa che è un'esigenza del visitatore per arricchire l'esperienza, c'era anche un'esigenza sempre presente, che è quella dell'aumentare la professionalità della guida museale. Mi spiego: se i musei non attraggono fisicamente persone sul luogo di visita, noi siamo un po' sulla sponda opposta dei virtual tour. Riteniamo che le tecnologie debbano essere utilizzate per attrarre fisicamente, per far vivere ancora fisicamente questi luoghi museali. Benissimo. E quindi attraendo le persone vuol dire avere più lavoro per la guida museale. Quindi non è una sostituzione, ma un motivo in più per andarci, per dare lavoro a tutti. Grazie a Claudio Germac. Grazie. Che ci ha parlato di Virgil, il robot che sarà operativo a Racconigi in provincia di Cuneo. Velocissimo. Ricordiamo che oggi, sabato 29 novembre, è la 18ª giornata nazionale della collecta alimentare, quindi si può andare in 11.000 supermercati e donare alimenti a lunga conservazione che poi vengono dati ai poveri. Ricordiamo in Italia ci sono sempre più poveri che non possono nemmeno permettersi del cibo. Vince a giudizio del sindacato della relazione che si può fare il premio Mauro da Bergamo, che vuole staccarsi da tutti quelli che si lamentano le cose che non vanno anche quando le cose vanno. Grazie a Giorgio De Luca, Andrea Piana, Lucia Tolbe, Daniele Buonamici, redazione, autori, Peter Bescapè, regia. Ci sentiamo domani. Ciao.